Inizia prova tecnica di trasmissione fino alle 22.30, quando allorché andrà in onda 25 o'clock. Il sito ormai lo sapete tutti, è www.ondarossa.info, sia per ascoltarci via web, sia per ascoltare le preziose notizie contenute in esso. C'è anche il lato riguardante la nostra sopravvivenza, le varie modalità di adesione per quanto riguarda la sottoscrizione per Radio Onda Rossa. In realtà da sempre autogestita, ormai da lontano 1977. Rapidissimi saluti, Anna qui a Roma, Venuzia Zozzetta Stramonio, Antonio Zoviet di Omicidio, in quel di Firenze. Abbiamo in Sardegna Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal, Tiziano Farinacci di Pigreco. In Olanda, Harlem, Moschita de Miramar, Ferraglia Planizia, progetto di Electro, Dario Arrighi, Dixide. Abbiamo Lucia Cagliazza in Arte Lupsi, che ci siamo gustati delle scorse settimane. Un saluto a Mirko Parrello, sempre da queste parti, Alessandra Mentana, Tabula Rasa in mezzo alle montagne di Cortina d'Ampezzo, Ernesti Panico Brusati da Varese, di Panico da palcoscenico. Il fedelissimo Mariano Anni Thierry, bel nome di origine francese, ma lui lo so, non c'entra nulla con la Francia. Noise Cluster con Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo, Enrico Marcheggiani di Blocco Nero. Abbiamo Isetual in quel di Milano e Mara Lasi di Calitis, che ci sta ascoltando anche lei dalla Sardegna. E allora, dopo questi rapidi saluti, si va ad iniziare la carrellata che ci porterà appunto alle 22.30 con qualche novità. E la prima novità di questa sera appartiene alla Porta Ermetica, un mega progetto con Davis Granziera di Teatro Satanico, Claudio Giammarini e Claudedi di Heinz Hoff Malato e tanti altri progetti del passato. Abbiamo anche Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte, La Mara, eccetera eccetera, anche lui. L'album in questione si chiama Si Sedes Non Is, album che si pone nell'alveo dell'esoterismo industriale, sulla scia per esempio dei primissimi Current 93, degli Sleep Chamber, per chi se li ricorda. Cominciamo a socializzare con questo lavoro e vi propongo la prima traccia, quella di apertura, dal nome Prologus Hermeticus. il misterico e oscuro trasporto, qualcosa che profuma effettivamente di occultismo e di iniziazione. Appartenente alla porta ermetica Sisedes Nonis, l'esordio per questo trio delle meraviglie, come ho già detto, Lunus Granziera, Davis Granziera, ossia Lunus Davis, Adriano Vincenti di Macelleria Mobili di Mezzanotte, La Mare eccetera, e il già citato Claudio Giammarini di Heinz Hof, Malato eccetera eccetera. Sisedes Nonis dunque, dal quale abbiamo estratto Prologus Hermeticus, album che ci ascolteremo per intero nelle prossime settimane. Pian pianino manderemo tutte le tracce, perché merita veramente di essere apprezzato da più affezionati e competenti possibile, qual è il pubblico e gli ascoltatori di Prove Tecniche di trasmissione. Intanto è tornata in maniera decente la chat qui sul computer, quindi vado a salutare anche Maya in Umbria, Lucky Wake qui a Roma, Resirex che ci sta ascoltando da Brescia, Marco Mascia di Progetto Sonoro, ci sono anche svariati ospiti qui dentro, tra cui Tecla Nives, che in realtà nasconde la voce interessante di Elisa Pianbianchi, già conosciuta più in ambito gothic con i 3-4 Plus. Per Luigi Ferro al sax, andiamo avanti. Dunque la porta ermetica ci aspetterà la prossima settimana, andiamo avanti e andiamo dalla Dissipazio, etichetta fondata da Nicola Quiricone, una delle più interessanti realtà degli ultimi anni. Anche qui ci inoltriamo nel mistero a partire dal nome Mao Ruro, che al momento non so cosa possa significare. E loro esordiscono con questa etichetta, con questo lavoro Empires, tra movenze elettroacustiche, movimenti chitarristici e percussivi. Una delle tantissime uscite interessanti di questa etichetta di origine toscana. E allora, questa sera tocca alle prime due tracce, ossia Bellet Memories e Palomar Void Zone. Fa dunque esordio qui a prove tecniche di trasmissione Maurulo, nuova avventura sonica proveniente dalla Dissipazio. L'album si chiama Empires, progetto con Francesco Cigana, batterie, percussioni e oggettistica varia, Luca Perciballi con la chitarra elettrica preparata e filtrata. E leggo proprio dal sito della Dissipazio, o meglio dalla pagina Bandcamp, una ricerca sui possibili incontri timbrici tra chitarra elettrica e percussione, volta a renderli indistinguibili, una forza sonora che genera dimensioni e mondi dove la narrazione drammaturgica non deve necessariamente essere antecedente al suono stesso che già racconta e descrive. La forma passa in secondo piano a favore del timbro. Questo è quello che ho cercato di tradurre dall'inglese della pagina Bandcamp e della Dissipazio per Maurulo Empires, esordio quantomeno con questa etichetta di Nicola Quiriconi. Saluto Cristiano Bocci di Chemical Resistance, altra eminenza grigia della scena sperimentale italiana. Antonio Zoviet ha accolto in maniera opportuna, come al solito, anche le varie influenze che vanno dai Nars Witwoud al John Zorn più sperimentale. saluto Cecilia Miradoli di Pindar. E adesso operiamo un salto netto, una cesura netta con queste sonorità fino ad ora ascoltate e andiamo dal neosinfonico laibachiano, i Laibach che nel 2023 si sono dati veramente da fare. Compreso questo Iron Sky, The Coming Race, Laibach che incontrano Tuomas Kantelinen. Colonna sonora della seconda parte di Iron Sky, dunque film. Escono naturalmente per la Mute ed è un CD, un doppio CD, con ben 43 brani. Noi pian pianino ce li ascolteremo praticamente tutti e questa sera, approfittando anche della brevità dei brani, ce ne ascolteremo 7. Stay Hungry, Stay Foolish, Renate and Obi, Vestal Celestial Amelia, Moon Fury is Back, Obi and the Vril, Wolfgang Fights, Renate is Illness e Vrilia. Thank you. abbiamo passato qualche minuto insieme agli sloveni Laibach. La solennità monumental industrial sinfonica classica del verbo Laibach, un verbo che si è espresso anche attraverso Iron Sky, The Coming Race, album uscito nel giugno dello scorso anno e che fa parte delle tante novità che metteremo questa sera in questa puntata di prove tecniche di trasmissione di oggi 7 febbraio del 2024. Intanto saluto 25 O'Clock che andrà in onda dopo il sottoscritto. Laibach, decisamente maestri nel comporre colonne sonore così preziose, al pari delle loro campagne di coveraggio, dove hanno mietuto vittime illustri come Rolling Stones, Beatles e tanti altri. Ricordiamo anche The Final Countdown degli Europe. Una carriera veramente decennale, quarantennale, giacché loro hanno iniziato ormai nel lontano 1980. E di novità in novità andiamo nel vasto panorama della 8 Tower Records, una delle tante affiliazioni appartenenti a Raffaele Pezzella in quel di Napoli. E soprattutto attraverso l'8 Tower Records ci sono sovente degli agganci con realtà letterarie nel mondo della fantasy e non solo. Per esempio questo è Nyarlathotep, un tribute to Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft non ha bisogno di presentazione, ritengo, ed è uno dei tributi che hanno composto diversi musicisti. In questa circostanza e questa sera ci ascolteremo due tracce di Gerstein, progetto italiano, con una traccia dal nome Dagon e poi i più misteriosi Nigredo con De Tenebroso Lacu. Dell'oceano salirà alla luce in un cataclisma cosmico. Sordo alla porta, come se un'enorme mano rigida stesse raspando contro di essa. Ma quella mano, mio Dio, non mi troverà. La finestra. Dopo Gerstein, ecco qui i portoghesi Nigredo de Tenebroso Lacu. Anche questa sera un viaggio in Nyarlathotep, tribute to Howard Phillips Lovecraft, un omaggio tributato da diversi artisti italiani e non, tra il metafisico, lo sciamanico, con un trasporto effettivamente anche qui misterico, al pari dell'inizio della trasmissione nel caso della porta ermetica. E l'omaggio di questa sera è stato tributato da Gerstein, dei quali uscirà un'intervista nella fanzine Charge curata da Resier X, che vede anche la collaborazione di Isa Etoile. Quindi attenzione, occhi e orecchie ben svegli per captare le novità anche di Charge. E poi ci siamo gustati De Tenebroso Lacu dei portoghesi Nigredo. Peraltro questa compilation in origine uscì qualche anno fa, esattamente nel 97, attraverso una label portoghese, la Cadat, e Pazzella in maniera opportuna l'ha ripresa e ristampata attraverso la sua Eight Tower Records. ci diamo un po' una scrollata, andiamo da Teatro Satanico. Eracleitus ci ha tenuto compagnia per molte settimane e questa sera finisce questo rapporto con un paio di episodi. Il disco si sviluppa con 3 brani e altri 6 remix, e quindi questa sera è il caso di Peer, remixata dall'italo-americano Cervello Elettronico, e quindi andiamo nel campo del rhythm che noise industriale. E poi Miri Oi con Lunus Sidereal Version.